Letture di Radio 24. La carcassa di un cane, bombole del gas adagiate sul dorso e immerse per metà tra la sabbia, gomme d'auto, sportelli d'auto, una marmitta, tre tubi di scappamento, forse quello invece è un pistone, un mucchio di scheletri di ombrelli, un ombrellone da mare rotto, un gabbiano vivo, un cancello arrugginito, fogli di giornale, Kleenex usati per le necessità del corpo, cartoline dall'inferno. Siamo alla confluenza del male, ai confini della civiltà, della legge, della decenza. Sulla spiaggia che si trova a metà tra la Pontina e il Vesuvio. È il destino che ha avuto Castelvolturno, 30 anni fa luogo di villeggiatura della media borghesia napoletana, e oggi set di Gomorra, in senso proprio e figurato. Castelvolturno ha 12 chilometri di pinete che si affacciano sul Tirreno, il più ricco polmone verde della Campania del Nord. 15.000 immigrati d'Africa non censiti, il 70% dei tributi evasi. Il mare è sporco, il comune è in dissesto, la magistratura si è arresa, la malavita ha issato il pennone. Si spaccia droga e carne umana in questo punto geografico dove lo Stato ha perso l'onore, la legge e il rispetto, la dignità, una prova di esistenza. Questo paese, per l'anagrafe, fa 19.000 abitanti, ma in realtà i residenti sono 40.000, per metà bianchi e per metà neri, gli ultimi degli ultimi, nigeriani, ghanesi, etiopi, eritrei, anche napoletani sfrattati, mariti separati e maschi senza lavoro, giovani conquistati dalla droga o dalla nulla facenza. Da noi è come se si fossero dati appuntamento tutti i falliti della terra, bianchi o neri fa uguale. Dice Vincenzo Ammagliato, cronista attento e testimone esemplare di come si possa vivere all'ingiù, di come si possa camminare all'indietro e non perdere la voglia di farcela, o almeno tentarci. Castelvolturno è il centro del concentramento dei senza speranza. E Castelvolturno, che avrebbe solo da piangere, riesce a sorridere sulle sue disgrazie, a provocare. «Vieni a sopravvivere da noi». È il refrain di una serie di cartoline che l'associazione Villaggi Globali ha distribuito per denunciare lo stato di abbandono delle strutture, la vita incivile che i bambini sono costretti a subire, l'edilizia obbrobriosa, i palazzi squartati, i giardini incolti, la morte della vita. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Antonello Caporale «Cartoline dall'inferno». Castelvolturno è in posa, da Il Fatto Quotidiano del 29 giugno. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Letture di Radio 24. Il 9 maggio del 1936, Benito Mussolini proclama la sovranità italiana sull'Etiopia. Anche il paese di Bellano, sulla sponda orientale del lago di Como, si prepara a festeggiare l'impero, come racconta Andrea Vitali nel nuovo romanzo Le belle cece. Il segretario del partito, Fulvio Semola, ha un'idea geniale: far suonare contemporaneamente tutte e 20 le campane del bellanese. Alla fine del concerto, la folla radunata in piazza avrebbe poi potuto ascoltare in diretta dalla radio il discorso del duce. Non tutti però parteciperanno all'evento. Tra quelli che si sono distinti per la loro assenza ci sono i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e Leudilio Malversati, primo iscritto al partito. Quest'ultimo si è fatto molti nemici in paese da quando è diventato ispettore di produzione del cotonificio locale, grazie al suo carattere inflessibile e alla sua abitudine di effettuare i controlli al personale senza preavvisare. Ma i problemi più grossi gli arriveranno dall'ambiente domestico, regno incontrastato delle belle cece. Sua moglie Verzetta Cece e la suocera Orbella Cece. Una notte, mentre rientra a casa dopo una sera passata al caffè, il Malversati subisce un feroce pestaggio da parte di un gruppo di sconosciuti. il giorno, convoca a casa sua il Fulvio Semola, primo tra i sospettati, in virtù di antichi rancori. Ma quando il malversati dà un ultimo controllo al vestito indossato la sera prima, ormai strappato e da buttare, trova una sorpresa. Da buttare. La servotta se l'era trovato tra le mani la mattina, non appena entrate in casa malversati. Il padrone l'aveva gettato in un angolo della lavanderia. Lei l'aveva ispezionato e giudicato ormai inservibile. Da buttare, appunto. Però l'aveva passato alla signora. Decidesse lei. In effetti, aveva ragionato la Verzetta. Tasche posteriori strappate, stoffa del pantalone lesa in maniera irreparabile sul retro della coscia destra. Stesso discorso per la giacca lacerata in più punti e incrostata di una sostanza collosa sulla schiena che aveva il profumo della resina, come se il signore fosse andato per funghi o fosse rimasto appoggiato a un larice, magari per fare un pisolino. Da buttare senz'altro. Però, visto che in quella casa comandava suo marito, la Verzetta aveva preferito lasciare a lui l'ultima parola. «Lo buttiamo?» chiese la donna. «E buttiamolo!» fece il malversati. «Anche se aveva sì e no un mese di vita. Però prima, fammi controllare di non aver lasciato qualcosa in qualche tasca. Nelle tasche interne della giacca, soprattutto, dove teneva portafoglio e documenti. «E questo cos'è?» disse. La Verzetta, al vedere quella roba pinzata tra le dita del marito, si portò le mani al volto. Il Semola, sulle prime, non intuì la natura dell'oggetto. Si alzò e fece due passi per vedere meglio. Da vicino, e approfittando dello sconcerto del padrone di casa, non ebbe dubbi. Mutande da donna. Cosa aveva combinato la sera prima il terrore degli operai del cotonificio? Si domandò il Semola quasi divertito. Niente di che, fu la risposta che si diede pochi secondi dopo il malversati, che si era fatto la stessa domanda. Giusto il tempo per vedere la Verzetta che con una mano, quale artiglio, cercava di strappare al marito l'indumento e lui, che colto di sorpresa, non stringeva la presa. Le mutande caddero così per terra. Rapido le raccolse il Semola, così poté vedere la sigla ricamata, VCM, Verzetta Cece Malversati. Opera su consiglio dell'Orbella, secondo cui una vera signora non doveva mai dimenticare chi fosse, nemmeno quando stava in mutande, oppure senza. A chi toccava rompere il silenzio adesso, pesante come il bordeaux della tappezzeria? Il Semola tentò. «Se non c'è più bisogno di me», bastò lo sguardo del malversati. «Stava forse scherzando?» Lo capiva o no che adesso la questione, da personale, si faceva familiare, che da segreta diventava segretissima, che sedesse per intanto. Il Semola sedette. Poi guardò la moglie, la domanda, anche quella, nello sguardo. «Io non capisco», rispose immediatamente la Verzetta. Il Semola si strinse nelle spalle. Sentiva nell'aria odore di polvere da sparo. Il malversati guardava fissamente un punto nel pavimento. Poi, con voce che sembrò rimbalzare da quello alle orecchie dei presenti, disse «È ovvia una cosa». Si aspettava che qualcuno chiedesse cosa? Nessuno lo fece. Gli toccò spiegare l'ovvio. Che qualcuno ce le ha messe. Al segretario non sembrò una gran deduzione e venne colto in controtempo da quello che il padrone di casa disse a seguire. «Qualcuno se n'è ovviamente impossessato furtivamente entrando in casa mia». «Bon?» fu il pensiero del Semola. All'aggressione adesso si aggiungevano la violazione di domicilio e il furto. Finalmente vide la luce e l'acqua per lavarsene le mani. «Roba da carabinieri!» sbottò. Il malversati reagì immediatamente. «Non se ne parla». Poi scosse la testa, lo sguardo perso a immaginare il maresciallo, com'è che si chiamava, a fare domande sulle mutande di sua moglie. La Verzetta, come se ne leggesse il pensiero, era tornata a farsi rossa. S'era riportata le mani al viso. «Come ho detto», concluse il malversati, «la faccenda resta tra noi e tra noi verrà risolta». Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del romanzo di Andrea Vitali, «Le belle cece». Garzanti, 240 pagine, 16,40 €. Anche se da qualche anno non si vede più in televisione, Topo Gigio è rimasto nel cuore di molte generazioni di italiani. La sua prima apparizione risale al 1959, all'interno della trasmissione Alta Fedeltà. In quell'occasione Gigio parlava con la voce di Domenico Modugno e solo successivamente avrebbe avuto la voce di Peppino Mazzullo, quella che tutti conoscono. In un libro autobiografico, Maria Perego racconta la genesi del popolare topo da lei creato, a partire dai primi prototipi. La svolta arriva quando la Perego scopre il moltoprene, un materiale sintetico che si sarebbe rivelato particolarmente adatto per i pupazzi che stava realizzando per la televisione. Ebbe una grande importanza nella nascita del pupazzo e devo confessare che trovarlo fu un colpo di fortuna. Passando davanti al negozio di un barbiere, mi capitò di vedere esposto un alberello di Natale fatto di un giocoso materiale plastico pieno di pagliuzze luminose che riflettevano molto bene la luce. Il barbiere mi regalò l'alberello e con quel talismano in mano, accompagnata da uno dei miei giovani ingegneri, iniziai ad aggirarmi per l'intera Brianza, convinta che prima o poi mi sarei imbattuta in uno stabilimento in grado di produrre quella strana sostanza plastica. Alla fine fui premiata. Trovai lo stabilimento che fabbricava proprio quel materiale che si chiamava Moltoprene, una schiuma plastica a base di poliestere. Da quel momento non solo fu adottato dai Perego nei pupazzi, negli effetti speciali e nelle scenografie, ma si diffuse velocemente e finì per essere utilizzato anche da molti altri scenografi. La scoperta di questo materiale risvegliò una volta ancora l'interesse nei nostri confronti e tutte le sezioni della televisione, ragazzi, cultura e rivista, ci chiamavano. Nel 1957 per la TV dei ragazzi mi fu commissionata una serie, scritta da Carlo Triberti, che allora era un funzionario Rai e solo anni dopo è diventato direttore del Corriere dei Piccoli, le cui storie raccontavano avventure vissute da animali del bosco. Anche se avevo già scoperto il moltoprene, non avevo ancora approfondito il movimento. Le storie di Messer Coniglio si avvalevano di personaggi costruiti in moltoprene, ma il loro movimento sostanzialmente era ancora quello dei burattini a guaina. Solo bocche e occhi si avvalevano della duttilità della plastica, evitando così gli antitelevisivi tagli ai lati della bocca e intorno agli occhi. Durante i preparativi mettevamo molta cura in tutto, e naturalmente anche nella scelta della voce che avrebbe dovuto doppiare il personaggio principale, Messer Coniglio. Nell'ascolto dei vari doppiatori, però, non riuscivamo a trovare la voce giusta, che io volevo fosse fra l'adulto e il bambino, con un briciolo di furberia e spavalderia, così come il visetto del coniglio suggeriva. Ci venne in aiuto la nostra regista Lida Ripandelli, che ci suggerì di fare il provino anche a un esordiente attore di nome Peppino Mazzullo, sbarcato recentemente dalla Sicilia. Preparai il provino con cura e quando Mazzullo arrivò in studio gli feci dare il benvenuto direttamente dal personaggio, nascondendomi come fanno tutti i burattinai sotto la rivetta che abitualmente delimita la zona d'azione del burattino, perché volevo che i due si incontrassero senza testimoni. Il coniglietto si dimostrò accattivante, affettuoso e subito complice. «Ti pare giusto che un maschietto parli con la voce da donna?» gli dissi. «Mi daresti una mano tu? Ce l'hai una voce giusta per la mia faccia?» Mazzullo, che evidentemente aveva osservato con interesse il personaggio, trovò la voce e, seguendo il movimento, riuscì da subito a dare le giuste pause a Messer Coniglio. Le sue pause non erano silenziose, le riempiva con sospiri a sottolineare i passi e le corsette, con brontolii, gorgoglii e gridolini, quando il coniglietto inciampava o si girava a sorpresa. Dimostrò di avere un giusto istinto per il doppiaggio e di divertirsi a dare la voce a questo elemento impalpabile che è il movimento. E io, che avevo creduto alla riuscita di questa serie, capii che avevo fatto centro perché da quel giorno nacque Messer Coniglio, che accompagnò per 3 anni i piccoli spettatori, i quali ne decretarono il successo inviandogli disegni, lettere e confidenze. 3 anni, durante i quali Mazzullo e io lavorammo in armonia, ma in cui non trovammo motivi per frequentarci al di fuori degli orari di lavoro. Contemporaneamente alla serie di Messer Coniglio, lavorammo anche in un altro programma Rai. Vito Molinari, allora regista incontrastato degli spettacoli leggeri di rivista, ci volle nel suo varietà internazionale Alta Fedeltà. Un personaggio che prese vita in quello spettacolo fu un topino tutto pepe, veloce e scattante, e ancora senza nome, nato ascoltando la voce di Domenico Modugno un po' accelerata che cantava la sveglietta. Questo topino, posso dire oggi, fu il primo passo, o meglio il seme, che diede vita a Topo Gigio. Tutto sale, sale, tutto sale, son salite anche le nebbole, nebbole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Tutto gira, gira, tutto girano le giribiricocole. coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma sta pazza mi di coccole, coccole. La scoperta del molto prene in Brianza aveva già dato frutti importanti, ma ancora non bastava. Io cercavo una rivoluzione, un'idea nuova e innovativa per il movimento del pupazzo, e fu proprio grazie all'uso del molto prene, che permetteva visi levigati senza tagli attorno alla bocca e che rifletteva perfettamente la luce dei set televisivi, che mi venne l'idea di intervenire sull'uso che fino a quel momento avevamo fatto del fondo nero. L'animazione su fondo nero, che io avevo scoperto per conto mio, era un artificio che i giapponesi già adottavano da molti secoli e i parigini da molti anni prima di me, ed era nata per rappresentazioni che di sicuro non contemplavano il mezzo televisivo. Il movimento su fondo nero è necessario per nascondere gli animatori, vestiti anch'essi di nero, all'attenzione del pubblico e confondersi con lo sfondo. L'uso particolare del fondo nero fu la mia idea determinante per trasformare quel topino usato per la prima volta in Alta Fedeltà e farlo diventare un nuovo personaggio. Riducendo infatti le dimensioni del pupazzo in modo da poter infilare a guaina le dita nelle gambe e impugnando la testa con l'altra mano, riuscì a mantenere a portata delle dita tutte le parti del corpo e in particolare quelle della testa, bocca, occhi, orecchie. Queste innovazioni nell'impugnatura mi consentirono di realizzare un pupazzo di una verosimiglianza sconcertante, libero nei movimenti, veloce negli spostamenti e con eccezionali possibilità di contatto con gli altri personaggi o con partner umani. È evidente anche che questa sensibilizzazione professionale circa i problemi del movimento rispondeva alla necessità di inventare un personaggio casalingo e italiano, con un'istintività di gesti che già contenevano il destino cordiale, naturalistico e sottilmente quotidiano di Topo Gigio. Così, con molta applicazione, arricchì quel topo che aveva avuto successo in Alta Fedeltà, studiando per lui un movimento molto sofisticato che ha dato il tocco definitivo all'arte del pupazzo. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Maria Perego, Io e Topo Gigio, vita artistica e privata di una donna straordinaria. Marsilio, 288 pagine, 18,50 euro.